Essere etero è dura. Essere etero è dura. Essere etero è dura. Essere etero è dura in una gay street, come essere sicuro di fare una hit. Essere down è dura in un bar, se può offrire un caffè, perché tutti provano buoni sentimenti e pena e lo vorrebbero offrire a te. Essere un rock così freddi è dura perché certi lavori t'annullano l'essere, certi lavori t'annullano. Tutta questa energia dissipata in seghe, ci facevamo un 68 o una rivoluzione francese. Dal boom economico al drum economico all'economico alcolico, è il primo tempo in cui sei povero e puoi far finta di non esserlo. Dal boom pornografico al boom pornografico all'economico alcolico, secondo un calcolo stocastico, il 50% di voi non sa che cosa vuol dire etimo. Stocastico? L'hip hop da queste parti sembra una gara chi ce l'ha più grosso. I centri sociali in Italia sembra una gara chi ce l'ha più rosso. Poveri di contenuto, poveri di sentimenti, sembriamo holding di pensiero in questi corpi d'automi spenti. Partiti presi di frasi, di posizioni prese a prescindere, se sei di parte ma fai la parte. Se alle domande sulla tua parte non sai rispondere, e figlio mio sarai il prescelto quando avrai scelto che il prescritto non fa per te. Dal boom economico al drum economico all'economico alcolico, è il primo tempo in cui sei povero e puoi far finta di non esserlo. Dal boom pornografico al boom poligrafico all'economico alcolico, ogni giorno come fosse l'ultimo, non fa in tempo a far crescere il basilico. Ma quali paste, ma quali disperate scopate nei bagni dell'open bar. L'adolescenza prescritta, l'adolescenza in pasticca, i pilloli di video su YouTube, ma dove sono le cose importanti? Io sto cercando le cose importanti, ma quali sono le cose importanti che metterò dentro, che canterò fuori? Scusate, canto il ritornello e vado, che ho lasciato la mia rosa sul mio pianeta. Sicuramente lei se l'è presa, ma sai, la amo e mi prenderò cura di lei. Dal boom economico al drum economico all'economico alcolico, è il primo tempo in cui sei povero e puoi far finta di non esserlo. Dal boom pornografico al boom poligrafico all'economico alcolico, ma hanno detto no limits, mi limito, perché tra i limiti si può essere umani, si può essere nani, si può essere cani, si può essere strani, si può essere felici.